CRM Happy Talent. Scopri i nuovi artisti con CRM Happy Radio. E allora un buon pomeriggio, ben ritrovati ancora su CRM. Grazie Geraldina, che non vuole proprio andare via oggi. La vostra Geri, perché è vostra e chi ve la tocca, sta ancora in studio perché vuole così assistere a questa trasmissione. E per noi è un onore, anzi se vuoi venire anche in studio qui da questa parte sarebbe bello, un'altra volta dai. Ok, allora un buon pomeriggio, ben ritrovati, e soprattutto a voi che ci guardate attraverso internet su crmepiradio.it, e per voi che ci ascoltate dalle vostre radio un saluto affettuoso. CRM Happy Talent, Santi Genovese in studio, e quest'oggi abbiamo anche dei ragazzi, dei giovani che già parteciperanno, che sono già semifinalisti della 25esima edizione dell'Astro d'Argento, e dunque oggi avremo modo di ascoltare tre voci nuove, visto che nel corso delle altre trasmissioni ne abbiamo ascoltate veramente parecchie. Ma comunque vi ricordo che le iscrizioni si chiuderanno il 31 di gennaio, ma il programma continuerà, perché se avremo ancora altre iscrizioni chiaramente, e poi li smisteremo nelle trasmissioni che andranno via via nel mese di febbraio e marzo. Per il momento invece abbiamo qui oggi una bella trasmissione, perché parleremo con tre ragazzi, due di Partinico e uno di Collesano. Finalmente qualcuno dalle nostre parti, visto che abbiamo tutta gente che viene un po' da tutta la Sicilia, da Canicattì, Agrigento, abbiamo da Ragusa, da Comiso, dunque oggi un ragazzo che viene dalle nostre parti. Bene, siamo contenti di questo. E dunque voglio ringraziare in apertura di trasmissione, oltre voi che ci ascoltate e ci guardate sempre con affetto, anche i nostri sponsor: la Corama di Castelbuono, e Mobili Fratelli di Salvo di Campo Felice di Roccella, e ancora Caffè Ruccione di Caltavuturo. Bene, a questo punto io direi di dare per un attimo se possiamo andare avanti noi o andiamo alla... Ecco, andiamo avanti noi. Allora, conosciamo oggi il primo concorrente, il primo ragazzo, il primo giovane che si esibirà. Lui viene da Partinico, sentiamo dalla sua voce, ecco, presentati pure, dici nome, cognome, da dove arrivi. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Gianluigi Di Simone, vengo da Partinico, sto intraprendendo questa esperienza con Sam qui in radio. Perfetto, il CRM oggi ti ospita qui, hai fatto una bella trasferta da Partinico, insomma, un'oretta, quanto è un'oretta di strada? Un'ora e mezza circa. Bene, abbiamo già qualcuno che ci manda i messaggi, sai, perché noi praticamente abbiamo tanti amici che ci ascoltano, e volevo leggerlo questo perché volevo salutare gli amici dell'Elite, e noi ci siamo visti proprio lì davanti in quel bar, sì, ecco, Davide Chisesi, leggiamo il suo messaggio. Ciao Santi, un saluto a tutto lo staff del bar L'Elite di Cefalù, ti seguiamo sempre con piacere, e noi vi facciamo ascoltare i nostri giovani in diretta qui da CRM. Allora, Pierluigi... Gianluigi. Sbagliano tutti, normale. No, perché Pierluigi viene più facile forse, sì. No? Questo. Non si sente tantissimo Gianluigi. Allora, quindi. Gianluigi, dimmi una cosa, da quanti anni è che tu, diciamo, canti, che ti esibisci? Insomma? Da 5 anni che ho intrapreso questa vita, ora sono stato un annetto fermo, e dopo un annetto questa è la prima volta che ritorno in radio, quindi... Hai riscaldato la voce, sì. Ma non tanto. No, dico dopo un anno fermo, insomma. Fermo, mi sono fermato un annetto per varie esperienze, quindi ora ho Avevi appeso il microfono al chiodo, sì, come si suol dire, ormai tanto appendono tutti al chiodo, nelle scarpette... Pure il microfono. Comunque sei ritornato con tanta voglia di fare, anche perché la musica poi come si fa a dimenticare? Cioè, chi ama la musica, chi ama il canto, difficilmente proprio la verità. Io ho avuto modo, visto la nostra trasmissione, visto la nostra manifestazione, soprattutto che gemellata con grossi festival fra i quali il Cantagiro, ho avuto modo di vedere un artista a Fiuggi durante la finalissima di quest'anno che è quasi ottantenne, sto parlando di Jimmy Fontana, è riuscito a far cantare e ad alzare in piedi 800 giovani che erano lì, che praticamente assistevano e partecipavano alla finale. Dunque, chi ama la musica non c'è età. Non si può togliere proprio dal sangue. Assolutamente. Allora, noi abbiamo così conosciuto il nostro... qua c'è un altro messaggio, questo è per il nostro Mauro.

E allora, grandi applausi per Gianluigi anche qua da parte del nostro studio. Bene, Gianluigi, l'emozione, un po' di emozione c'è anche. Perché, c'è ancora, quindi c'è, guarda, qualcosina di riniziare? C'è. Guarda, io leggevo poco fa che il nostro Simone ci mandava un messaggio. Praticamente Lucia da Los Angeles augura tanta fortuna a Mauro, ma stava guardando te sicuramente in quel momento, c'eri tu, e penso un po', la gente ci può vedere da qualsiasi parte del mondo attraverso internet con streaming, chiaramente su crmpiredio.it. È arrivato anche il momento di dare la linea alla regia per la pubblicità, e ci ritroviamo qui fra poco con Jennifer. E allora, ritorniamo di nuovo in studio, qui stiamo facendo un po' i commenti sui vari messaggi che arrivano. Poco fa ne è arrivato anche un altro, adesso c'è un messaggio per l'amico Gianluigi, bravo, bravissimo, tutta Partinico è con te. Insomma, oggi abbiamo il tifo da una parte di Collesano e Partinico, insomma, sembra quasi una partita di calcio, ma qui siamo tutti amici, i ragazzi si vogliono tutti bene, non c'è questa competizione, però è bello sentire che i vostri parenti, amici, conoscenti vi guardano, vi ascoltano attraverso la radio, bellissimo. Allora, conosciamo questa bella ragazzina, date via anche la voce, vedi? Allora, Jennifer, presentiamoci subito, tu sei? Jennifer Blandino, stavi dicendo? Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Jennifer Blandino e vengo da Partinico e studio da circa 2 anni. Studi canto da circa 2 anni, sì. E praticamente come ti è nata questa passione per la musica? Ecco, vediamo. Come la prima volta che hai deciso di cantare? O è stato papà, la mamma? C'è stato qualcuno che ti ha spinto a... No, non c'è stato nessuno. Assolutamente no. Nessuno. No. Allora, a me piace anche ballare, sinceramente. Ecco. Poi il ballo ha cominciato a lasciarlo, ad abbinarsi col canto, sì. Allora, diciamo che sei una prossima da musical, cioè praticamente canto, ballo, insomma tutta una, sì, serie di situazioni. Ecco, scopriremo poi nel corso delle varie tappe del festival, delle semifinali, queste qualità di Jennifer. Allora, diciamo la tua il tuo più bel ricordo di una serata che hai fatto, ad esempio, magari, che ne so, hai cantato in qualche posto, ti è rimasta impressa qualcosa di particolare di quella serata, una vittoria, una sconfitta, un ricordo, sì, quando bello. Ho fatto uno spettacolo a Campo Reale per, sì, un programma. Mi è rimasto molto impresso. Ecco, che tipo di spettacolo era? Era uno spettacolo di piazza, una radio, cos'era? Un teatro? No, simile a una radio. Ah, ecco, e lì... E quanti anni avevi allora? E qualche... 11 anni, 12. Ah, ecco, allora già era la mia prima esperienza. E infatti lì hai cominciato a dire: no, io adesso devo cantare, devo diventare famosa. Allora, Jennifer, noi te lo auguriamo tutti quanti, dal più piccolo al più grande dei nostri concorrenti, perché poi avrete modo di vedere che nel corso della manifestazione sono nate delle amicizie così belle che ancora, sì, oggi praticamente c'è gente che si telefona, si incontra, ecco, perché poi diventa proprio una cosa bella. La cosa più bella che ho visto, cosa che non vedo magari in altri festival a livello nazionale, perché i concorrenti quasi quasi si guardano un po' in cagnesco, qui ti fava uno per l'altro, cioè praticamente una cosa incredibile, dietro il palco c'era questa bella atmosfera che quando finiva di cantare un ragazzo, gli altri concorrenti appena usciva dal palco lo abbracciavano, gli facevano i complimenti. Questa è una cosa molto bella che a noi fa piacere, perché noi cerchiamo soprattutto questo, la semplicità e la bellezza. Allora, Jennifer, oggi ascolteremo e ascolteranno la tua voce con che cosa? Quale canzone? Una canzone di Giusy Ferreri, Stai fermo lì. E io mi sto fermo qui mentre ti guardo, ok? Allora, sistemiamoci pure per l'esibizione di Jennifer. Voglio ricordare che fra qualche minuto, esattamente dopo le 17.30, avremo il nostro ospite in diretta telefonica, e quest'oggi avremo il patron del Cantamare, Gianni Contino, in diretta qui su CRM. Parleremo un po' del passato, del presente e anche del futuro. Vai, Jennifer. E mi dici che oramai è finito, questo è falso. È che non ti ho mai realmente amato. E questo è brutto. Perché? E non ti basta la violenza di uno sguardo trascorso ormai. Vuoi di più e non si ferma il tuo odio nascosto. Stai fermo lì e ti guardo, poi ti perdo. E in ogni frase, in ogni attesa lieve, dentro e fuori il mondo sarò lì. E mi dici che sarai mio amico. Credo che mi chiamerai se sarai solo. Io ora rido. E perché? E non ti basta questa stanza che si riempie di vuoto. Sarà sofferenza, oh che cosa, un dolore da poco. Stai fermo lì e ti guardo, poi ti perdo. Dormirai mentre ti ascolterò, sorriderai ma non ci crederò, maledirai ciò che sono e sarò, e me lo dirai ma dimenticherò. Stai fermo lì e ti guardo, poi ti perdo. Dentro e fuori il mondo sarò lì, sarò lì, sarò lì. Allora, complimenti Jennifer, grazie. Complimenti, mettiamo a posto il microfono, anzi hai ricevuto anche tu dei messaggi. Jennifer, sei bravissima, da Federica, conosci Federica? Chi è Federica? Mia cugina. Tua cugina. E poi un altro grande messaggio, Jennifer sarà numero uno da Madrina e Padrino, vabbè questo è interessante, insomma Madrina e Padrino che li hanno visto, comunque complimenti. Grazie. Complimenti a Jennifer. Allora vi confido una cosa, io di Jennifer avevo ascoltato soltanto la demo che mi aveva inviato. Sì. Devo dire che adesso, ascoltandola di presenza, sono contento di averla invitata qui quest'oggi. Grazie. Complimenti. Allora, bene, allora adesso noi abbiamo l'ultimo nostro concorrente oggi in studio, l'ultimo, mentre loro si preparano, cioè tu dai la cuffia a lui, cambi di posto. Io volevo ricordare ancora il lungo elenco dei semifinalisti già selezionati per questa 25esima edizione. Monica Giambrone di Campofelice di Roccella, Giulia Pace di Mentana in provincia di Roma, ancora Maurizio Indelicato di Campobello di Mazzara, Filippo Benanti di Bagheria, Ilenia Valenti di Monreale, Roberta Scimeca di Palermo, Ilenia in Bergamo di Figarazzi, ancora Monica Brillanti di Palermo, Sasi Di Maggio di Balestrate, Marichia Castro Giovanni di Palermo, Monica Crivello di Santa Flavia, Roberta Arena di Palermo, Francesca Geraci di Caccamo, Ivana Baglieri di Comiso, Letizia Galesi di Caltagirone, ancora Jennifer Blandino che abbiamo seguito poco fa di Partinico, poi ancora Martina Palilla di Canicattì, Priscilla Armetta di Lascari, i Pantarei, un gruppo di Campo Felice di Roccella, Noemi Cangelosi di Palermo, Claudia Tamburo di Cefalù, Simone Gianluigi di Partinico, l'abbiamo avuto oggi, di Simone, insomma, o sbaglio il nome o sbaglio il cognome, adesso però adesso lo scrivo giusto, guarda, credimi. Allora, di Simone Gianluigi, sarebbe Gianluigi il nome, di Simone, ecco, il cognome. Allora, poi ancora abbiamo Salvatore Vaglica di Palermo, Melanie, Martina Formica e Mauro Morani, ultimo arrivato in questa lunga lista di semifinalisti che si concluderà il 31 di gennaio quando chiuderemo le iscrizioni. E allora conosciamo il nostro Mauro. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera Santi. Mauro, ben arrivato, benvenuto. Grazie. Sappiamo che tu sei un cantautore anche perché scrivi le tue canzoni. Spero. Ecco, spero. E noi speriamo di dai cantautori soprattutto ci aspettiamo sempre il meglio, perché oltre che interpretare i brani, ecco, le loro canzoni sono anche poesie, perché vengono scritte col cuore, sono dei momenti particolari che un cantautore mette su carta con una penna in mano e in qualsiasi momento. Io una volta in un'intervista un cantante mi ha detto, una volta alle 2 di notte mi sono svegliato e mi è venuta l'istinto di scrivere delle frasi, dopodiché è diventata una bellissima canzone, e questo è veramente importante in un cantautore. È vero. Sì. Mauro, io sono felicissimo di averti qua questa sera. Già sono arrivati veramente i messaggi anche da Los Angeles, perché praticamente grazie a Lucia che è stata l'ultima maestra d'inglese, in quanto questo brano che presenterò sì, infatti non abbiamo è nella prima. Mia lingua, però appunto ma ne abbiamo parlato prima. Abbiamo parlato prima e questa sera tu canterai questo brano in inglese, però poi nel corso della manifestazione passiamo all'italiano magari con qualche tua altra bella canzone, e poi chiaramente valuteremo il tutto. Per il momento è importante arrivare in semifinale, fare l'esibizione alla radio e poi strada facendo vedremo il da farsi. Comunque complimenti a Mauro. Grazie. Allora Mauro, prepariamoci per ascoltare questo tuo brano che si chiama What Can I Say? E l'hai scritto tradotto tu. Significa, ecco, io ti stavo dicendo dimmi che ti posso dire, cosa vuoi che ti dica. Ah, ecco, perfetto, allora non mi dire più niente, ascoltiamo il brano, cantiamo. Grazie. Allora Mauro Morani, se dalla regina siamo pronti, Simone già è perfetto, possiamo ascoltarci Mauro, vai. I can see sunshine, my friend. all kind of fantasy. It's a joy whenever I meet them. Who's gonna buy the sound of brick, my friend? I had to leave you yesterday. I want you, baby, what can I say? When I'm in front of you, my spirit, it's burning. I need the fresh clean water, come up from the source on this new day. In this new day, what can I say? I am gonna live a new day. I don't want to, baby, what can I say? What can I say? Oh my girl, what can I say? Oh my friend, thank to you. Oh my friend, oh my friend, thank to you. I can do a thing with you, my friend. I can do a thing with you, my friend. I can do a thing with you, my friend. I can do a thing with you, oh my friend, thank you, thank you. Mi ha indicato la strada per venire da te, e in silenzio mi accompagni da lui. Mi ha indicato la strada per venire da te, e in silenzio arrivo. Ok Mauro, complimenti a Mauro, veramente. Allora, bella, bella. Volevo chiederti una cosa, la musica l'hai scritta anche tu oppure, sì. Sì, accomodati pure. Sì, grazie a un dito ho scritto anche la musica di Jet, un dito che mi si è rotto. Ah, pure, allora mettiamo a posto il microfono. Dunque, allora, parole e musica, molto bello il brano, molto bella anche la musica. Simone, tu che fai Rock Revolution, insieme a Filippo, lo ricordiamo ogni venerdì sera. Ecco, hai apprezzato moltissimo questo brano. Vogliamo sentire la voce anche di Simone, del nostro Simone, dai. Ma anche no, direi. No, a parte gli scherzi, io ho apprezzato tutti e tre i ragazzi, certo, che si sono esibiti. Ecco, però questo diciamo, si avvicina molto al tuo si genere. Si avvicina molto e l'ho apprezzato molto. Devo dire, faccio anch'io i miei complimenti. Grazie, ti faccio i complimenti, Simone. Li faccio anche a voi due ragazzi. Ecco, perfetto. Lui, pubblicizziamo anche questo, diciamo, Simone insieme a Filippo. conducono ormai da anni un programma su CRM, Rock Revolution, tutti i venerdì dalle 22 dalle 21 alle 24. Ecco, perfetto, non azzecco una oggi, oh, con i nomi, con gli orari, insomma è incredibile. 21-24, allora sintonizzatevi su CRM Piredio per Rock Revolution. Un altro messaggio, eccolo qua, Enza Maria: Gigi sei il numero uno, baci, ti voglio bene. Gigi sarebbe Gianluigi, ecco, forse è meglio chiamarti Gigi, dai, mi viene più semplice. Allora, adesso ragazzi, facciamo un piccolo break con la pubblicità, dopodiché ritorniamo in studio e abbiamo l'ospite che praticamente ci parlerà dell'Astro d'Argento, ma anche del Cantamare. E allora, linea alla pubblicità. Per regalo da trovare sotto il letto, qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto, come quella volta in treno che guardavi dal finestrino, t'ho viste avvicinandomi, cominciai a fare il cretino. Che ore sono, quanti anni hai, davvero sei di Milano? Ho una zia che vive a Brescia, certe volte il mondo è strano. Cosa vorresti che dicessi adesso che ci frequentiamo? T'accontenti di ti voglio bene oppure vuoi proprio ti amo? T'ho comprato un cagnolino che abbaiava raramente, ma da quando sta con te si è già mangiato tanta gente. Lo sapevo che eri strana, però non capivo quanto, e da quando stiamo insieme 2, 3, 4 volte ho pianto. Cosa vorresti da mangiare? Siamo andati al ristorante, sembra non ti piaccia niente, pure di cose erano tante. Allora siamo andati al mare, così almeno ti rilassi, e invece è troppo caldo, così anche lì mi stressi. Andiamo via, ti prego, andiamo a casa, ti farò impazzire, ma poi sei troppo stanca, hai mal di testa e vuoi dormire. Però mi piaci, mi piaci, chiede una tinta anche lì, neanche a farla apposta hai avuto da ridire, perché la musica era troppo alta e hai chiamato il cameriere. Questo posto mi fa schifo, guarda un po' che serataccia, lui ovviamente si è incazzato e ha dato a me un cazzotto in faccia. Però mi piaci, mi piaci, che ci posso fare, mi piaci. Si sentiva troppo sola, era stare un po' da noi che una settimana vole così. Sono 2 anni che mi stressa ogni mattina, dice che lo fa per noi. Bene, sfumiamo il buon Alex Britti con questa Mi piace, ma a noi piace di più parlare e ascoltare i nostri ragazzi, ma ascoltare anche gli ospiti che avremo fra un attimo. Intanto volevo salutare Luigi e Antonella, e Antonella dirgli che dalla regia mi segnalano che i tuoi messaggi non sono arrivati già, dunque di conseguenza non possiamo leggere i messaggi che non arrivano, se non li mandi non li posso leggere. Tira d'orecchia alla nostra segretaria di produzione Antonella, che ci sta ascoltando da casa, mentre salutiamo Luigi e ancora una volta facciamo i complimenti a Mauro. Va bene, abbiamo parlato un attimino adesso. Chiaramente non ti dico che eri emozionato, ma devi essere emozionato in qualsiasi momento. Un artista è sempre emozionato, anche dopo 30 anni, 40 anni, ecco, sempre emozionato. Avvicinati. Non c'è piacere, se no. Ecco, quell'emozione bisogna sempre sentirla. E adesso noi andiamo a sentire un grandissimo personaggio, caro Mauro. Un personaggio che è nella musica da tantissimi anni. Fra l'altro questa sera scopriremo insieme a Simone, vi farò vedere una foto del 1984, ma dopo, quando parleremo con il nostro ospite. Ed era una delle prime edizioni del Festival Astro d'Argento, dove c'era il nostro ospite, Ma prima di passare la linea a lui, direi di leggere questo. Ecco, finalmente, Antonella, se tu mi mandi i messaggi, Antonella e Luigi, bravo Mauro, un caro saluto a CRM, a Santi, da Antonella, Luigi e Joker, da Campo Felice di Roccella, mi aggiungo io, i saluti per tutti quelli che stanno qui in studio con noi. Bene, allora al telefono abbiamo Gianni Contino, patrono del Cantamare. Ciao Gianni! Ciao, come stai, caro? Come devo stare, siamo qua, come vedi non invecchiamo mai, anzi siamo sempre sulla cresta dell'onda. Comunque un saluto affettuoso al Rico Alduino di Radio Madonie. Sì, e non c'è lui oggi, lo abbiamo noi i vecchietti li mandiamo via, siamo tra giovani. Ma Gianni... lui è pure la nostra età. Lo so. Angelo è impegnato in altre cose, anche perché stasera c'è il Consiglio Comunale, c'è la diretta del Consiglio Comunale di Cefalù. Allora Gianni, che piacere ritrovarci dopo tanti anni, perché dovete sapere che Gianni Contino, patrono del Cantamare, per molti anni, soprattutto all'inizio di questo festival dell'Astro d'Argento, ha collaborato in prima persona, proprio portandoci artisti, ospiti alla manifestazione. Gianni, quanto tempo è passato, Gianni? Beh, diciamo un giorno. Ecco, benissimo. Fra l'altro, senti, dalla regia mi mandano una foto che è del 1984, come mi hai detto tu, praticamente, dove c'è la tua testolina che si intravede, dove c'è, ecco, per i ragazzi che non vogliono conoscerti dico dove c'è scritto Lu, ecco, sotto c'è Gianni Contino e c'è un presentatore che praticamente non si riconosce perché aveva ancora qualche capello in testa, adesso non ce l'ho più. Vabbè, ma non sono i capelli che fanno la mente. Va bene, comunque sono io. Pensate che la ragazzina che si vede accanto a me col vestitino bianco era la Geraldina che voi poco fa avete visto qua all'inizio della trasmissione, cioè Geri che ha fatto il programma prima di noi, eccola. Ed era una bambina proprio in quell'anno, non so se ha vinto il secondo premio, terzo premio, secondo premio, perché a questo punto non mi ricordo più completamente. Comunque questo, io devo ringraziare Mario Licciardi, che è il ragazzino che vediamo lì, che ha vinto in quell'anno il festival, che mi ha mandato questa foto. Allora Gianni, sì. Non viviamo di ricordi, abbiamo un po' rispolverato il passato, ma andiamo al presente e al futuro. Sì. Ecco, come va con il Cantamare, Gianni? Stiamo in fase di preparazione. Per cui di conseguenza quest'anno già siamo arrivati alla 35esima edizione. 30? 35. Mamma mia, ti devo rincorrere sempre io. È una vita, è una vita. Tant'è che sai benissimo che il Cantamare nasce a Cefalù. Esatto, infatti. Va bene, da tanti anni, mi pare che sia stato circa 15 anni a Cefalù. Infatti, un'altra perdita enorme. Come tu sai, anche noi non siamo più a Cefalù, ma a Castelbuono da 3 anni, questo sarà il quarto anno che facciamo il festival a Castelbuono. Purtroppo Cefalù riesce a perdere tantissime cose belle e poi... Cefalù ha semplicemente il fascino del grande centro, esattamente, che la conoscono tutto il mondo. Per cui nasce esattamente questo punto di vista turistico. Infatti, e appunto Gianni, perché... praticamente assieme alla Modamare, al Cantamare, di conseguenza è stata una cosa abbastanza interessante. Poi sai come le cose passano e di conseguenza non c'è più lo spirito e l'iniziativa, perché purtroppo manca il denaro. Sì. Sono rimasti pochi comuni, quelli che hanno ancora qualche centesimo, devo dire. Quelli che ce l'hanno, prima di spenderlo, valutano bene a chi... io devo dire che quest'anno già noi, ad esempio, per quanto riguarda la finale, siamo stati fortunati, perché con Castelbuono abbiamo già anche definito la data della finalissima, che sarà il 13 agosto in Piazza Castello, proprio a Castelbuono. In quell'occasione ci saranno 20 bravi e fortunati ragazzi, perché bravi sono tutti, poi sai, ci vuole un pizzico di fortuna per arrivare fra i 20 finalisti del festival, e tu lo sai meglio di me. Allora Gianni, dunque... Io volevo dirti questo, appunto, si parlava di questa 35esima edizione del Cantamare, ci stiamo preparando ora, venerdì si parte per l'America, la ragazza che ha vinto, si è stata 2-3 volte a Cefalù, proprio nei programmi del nostro caro amico e nonché mio compare Liberti. Sì, sì. Va bene. Per cui di conseguenza sto preparando questa lunga maratona, questa tournée in America con questa ragazza che ha vinto il Cantamare. Quante tappe farete, Gianni? Ma dunque facciamo esattamente 4 tappe. New York, New Jersey, e poi andiamo in Florida. Oh, ho capito. Bene. E invece per quanto riguarda il Cantamare 2013, insomma, so che il siete... Cantamare 2013, io spero, direttore, che tu sarai accanto a me. Ma tu mi parlavi di un progetto, adesso lo possiamo dire anche in diretta. Sì, lo possiamo dire in diretta perché ti ho chiamato, perché di te ho sempre avuto stima e fiducia, che so che praticamente sei all'altezza di poter prendere dei giovani bravi da portarli al Cantamare. Però la cosa principale che mi interessa molto è l'Interland di Cefalù. Sì, esatto. Va bene. Perfetto, ho capito che... Per cui generiamo questo nostro appuntamento. Perfetto, dovremmo selezionare un po' nell'Interland cefaludese, chiaramente un po' nelle Madonie, sì. Cefalù e Madonie, poi i ragazzi che poi così smisteremo al Cantamare. Ma sicuramente poi Gianni è così bravo che se ci sarà qualcuno che non fa parte dell'Interland lo prenderà l'uguale. Ah sì, certo. Ma dal momento in cui tu mi darai una mano, dietro la ricerca di questi giovani, va bene, dove la nostra manifestazione avverrà alla fine di luglio. Sì, per perfetto. Cui praticamente l'incarico che ti do a te quando io ritorno dagli Stati Uniti, ci vediamo, ti do le mie schede, le mie cose, certo. E automaticamente addirittura tu scrivi quelle che rendi, che credi che siano più brave. Si farà una selezione, si farà un'audizione, come del resto faccio io, dove cerchiamo una location dove fare esattamente questa selezione per Gianni, io ti ringrazio veramente per la fiducia, per la stima che hai nei miei confronti, ma soprattutto nei confronti del festival, perché poi noi cresciamo insieme alla festa. Una volta ti hai presentato tu il Cantamare. Mi ricordo che ho presentato il Cantamare in quel di Casteldaccia, insieme alla... Era una presentatrice del TGS, la Cangelosi, se sì, non vado errato. È stata una bella edizione, mi sono divertito ed è stata veramente per me un'esperienza importante e unica. Ecco. Comunque avremo modo di parlare. Io ti ringrazio Gianni, ti auguro dunque un buon viaggio, una buona tournée, così quando ritornerai dall'America noi potremo cominciare a lavorare su questo progetto e su questo nuovo e bello gemellaggio con il Cantamare Astro d'Argento. Io ti ringrazio tanto sempre. Ti ringrazio te e la radio che praticamente sta sentendo la mia voce per essere stati così gentili nella pensare. Gianni, ti dico semplicemente che abbiamo ricevuto dei messaggi, perché la gente ci vede anche attraverso internet in streaming. Sì. Abbiamo ricevuto dei messaggi dell'America, da Los Angeles, poi un'altra zona dell'America, non mi ricordo, perché i ragazzi che oggi si sono esibiti qua hanno dei parenti in America, avevano appunto avvisato che li potevano vedere, ma poi sai com'è, si sparge la voce, il passaparola. E abbiamo ricevuto anche questi messaggi dall'America, dunque ci seguono anche da lì, pensa un po' Gianni. bello, va bene, ok, va bene. Gianni, in bocca al lupo, ci saluto, vediamo quando Angelino. Senz'altro, allora ci vediamo quando rientri e così possiamo partire con quest'altra nuova esperienza del Cantamare. Come tu sai già, l'Astro d'Argento collabora col Cantagiro, collabora col Castrocaro, ed è bello collaborare con un festival come il tuo, che è proprio regionale, che è siciliano a tutti gli effetti, un festival doc siciliano, dai. Esatto. Ok, ciao Gianni, bocca al lupo per tutto. Ciao. Bene, abbiamo sentito la voce di Gianni Contino, io lo ringrazio sempre, e dunque altro lavoro in più per la nostra organizzazione. Dobbiamo organizzare anche e lavorare anche per il Cantamare, ci fa sempre piacere, perché è un campo che a noi praticamente, se lo facciamo, vuol dire che ci piace farlo, come voi che cantate. Adesso, prima di salutare i nostri amici, i nostri ospiti, sono le 17.55, quasi e 56, perché io ho due monitor, 1.55 e 1.57, taglio a metà e dico 17.56, pubblicità. Bene, allora eccoci arrivati alla fine di questo appuntamento, bello anche questa puntata di CRM Epitalent. Io volevo salutare e ringraziare gli amici dell'Elite. Non facciamo pubblicità, non gli ho chiesto lo sponsor, perciò è semplicemente un saluto a Davide e a tutta l'equipe dell'Elite che ci ha seguito. Bene, poi salutare i nostri sponsor, la Corama di Castelbuono, i mobili Fratelli di Salvo di Campo Felice di Roccella e ancora Caffè Ruccione. Ringraziamo Luigi, Antonella che mi ha tirato le orecchie attraverso un messaggio, perché io non ho letto i messaggi che lei non aveva mandato. Ma allora, ancora un messaggio, Antonella, Gigi e Luigi. Gigi, grande progetto Astro d'Argento e Cantamare, fantastico, ti ringrazio. Così facciamo 2-1-3, insomma, manca solo il Festival di Sanremo e siamo al completo. Magari l'anno prossimo ci chiameranno per collaborare con loro, chissà, qualcuno starà ascoltando. Bene, allora, ringrazio i nostri ragazzi. Prima con le donne, poi con allora ringrazio Jennifer Blandino. Ciao Jennifer, allora un saluto. Non ti mette la cuffia, dai, metti anche la professionale al massimo, guarda. Grazie a voi, ecco, ci vediamo alla prossima, Alla prossima. Sei già in semifinale, mi raccomando, continuiamo a studiare sia il canto che la scuola, certo. Però mi raccomando, certo. Complimenti Jennifer. Grazie. Un saluto a Gigi, puoi parlare anche qua. Sì, grazie a voi comunque, spero di rivederci al più presto, no? Sicuramente, non mancheremo, ormai... Ormai siamo in questa avventura, quindi staremo a vedere, grazie. Bene, grazie Gigi, adesso abbiamo Mauro, grazie Mauro, grazie a te, complimenti ancora, magari sono convinto che Rock Revolution, chissà che non ti ospiterà qualche puntata, perché diciamo che è molto... Allora, io volevo spero dire bene. Questo, i ragazzi sono in semifinale, ma i ragazzi non è che praticamente è l'Astro d'Argento, ma noi lavoriamo a 360 gradi, cioè se ci sono altri festival che ci chiedono i nostri ragazzi, ecco, noi... se sono delle cose serie e che valga la pena andare, noi diciamo e li avvisiamo e li portiamo i nostri ragazzi, così come Cantagiro, Castrocaro, Cantamare, e vediamo chi si offre ancora. Allora un saluto anche ai parenti, amici che sono stati qua in studio, salutiamo dall'America, ciao. Ok, e un ringraziamento particolare va al nostro Simone, che come sempre ci guida con una sapienza incredibile. Ciao Simone, un saluto a tutti, alla prossima, a lunedì. Grazie.